Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eh sì, sembrava che fossimo riusciti ad attenuare e quasi ad estirpare quel male che faceva crescere quegli strani frutti sugli alberi del sud dell'America di cui cantava Billie Holiday con la sua Strange Fruits. E invece è stata solo un'illusione, perché ancora oggi negli Stati Uniti, terra di democrazia, uguaglianza e prosperità, se nasci col colore della pelle sbagliata sei condannato ad una vita difficile, nera rispetto a quella candida e più semplice di un uomo bianco. E lo so, i più superficiali diranno: un afroamericano è arrivato ad essere il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo. Noi, quindi il mio amico Francesco Tromba e io, vi rispondiamo che è vero, ma quanti afroamericani, quanti uomini e donne di colore sono stati frustati, impiccati, torturati, segregati, umiliati e uccisi ingiustamente prima e dopo quell'elezione? Quanti esseri umani sono stati complici di quello che è il più grande crimine contro l'umanità stessa? Il razzismo. Il soundcheck di oggi lo dedichiamo ad artisti, musicisti e compositori che con la loro musica hanno alzato la voce a favore dei diritti umani. Il soundcheck di oggi è dedicato al Black Power, anzi, per essere più precisi, Soul Power. Il razzismo, dicevamo, è il delitto più grande di cui l'uomo si sia macchiato nel corso della storia. Nonostante le azioni forti di personaggi come Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, ma anche artisti come Billie Holiday, Nina Simone o Ray Charles e tanti altri, ancora oggi la gente nera ha meno diritti rispetto ai bianchi. L'uomo non sa di essere il più crudele ed ingiusto degli esseri viventi e non ha ancora capito che, parafrasando le parole di Albert Einstein, l'unica razza che esiste è quella umana. Al soundcheck di Radio 24 arriva Stevie Wonder, 1976, da Songs in the Key of Life, Black Man. Ecco, Black Man, Stevie Wonder ci ricorda le geste eroiche di uomini e donne di colore, come Crispus Attucks, un uomo nero, il primo uomo a morire nel massacro di Boston, oppure i Pelle Rossa, la gente nativa degli Stati Uniti d'America, Pedro Alonso Nino, un uomo marrone, come lo definisce Stevie Wonder, che guida la spedizione di Cristoforo Colombo, oppure i lavoratori cinesi, gli uomini gialli che hanno costruito le ferrovie americane, ma anche uomini bianchi come Thomas Edison, inventore della lampadina, o Abramo Lincoln, un uomo bianco che ha abolito la schiavitù e ne ha fatto un reato penale. Black Man, Stevie Wonder al soundcheck. Sound check, il suono della musica. E con questo brano intitolato You Are The Man del 1972 per la Tamla Motown, Marvin Gaye ne canta quattro ai probabili candidati alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti proprio di quel periodo, e in modo particolare a un signore chiamato George McGovern, al quale chiede The Change, un cambiamento. Ma che cos'è il razzismo? Ecco, proprio questa è una definizione che viene da una enciclopedia, da un dizionario. Il razzismo si riferisce ad un'idea, spesso preconcetta e comunque scientificamente errata, come dimostrato dalla genetica delle popolazioni e da molti altri approcci metodologici, che la specie umana possa essere suddivisibile in razze biologicamente distinte, caratterizzate da diverse capacità intellettive, valoriali o morali, con la conseguente convinzione che sia possibile determinare una gerarchia secondo cui un particolare ipotetico raggruppamento razzialmente definito possa essere definito superiore o inferiore a un altro. Move on up, Curtis Mayfield, 1970, al soundcheck di Radio 24. Understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Sound check. Yes. Il suono della musica. Call me if you ever need a friend. Call helping a hand. Call me. Call me. Call me. Call me. Call me. Call me. E dopo il grande successo ottenuto con la pubblicazione dei suoi primi due album, Bill Withers con la sua band si ritrova ad affrontare nel 1973 la platea dell'importantissima Carnegie Hall di New York. Una serata speciale, una serata molto emozionante per Bill Withers, che si ritrova alla Carnegie Hall sold out, piena di fratelli e sorelle nere, con figli, mariti e nipoti impegnati nella guerra del Vietnam. E a un certo punto del concerto Bill Withers propone la sua splendida Lean On Me, un brano dal sapore gospel che poi è diventato col tempo anche uno standard del genere. Lean On Me è una composizione scritta da Bill Withers nel 72 per ricordare le sofferenze dei minatori di carbone delle Slab Fork nel West Virginia. E oggi il soundcheck celebra artisti, musicisti e compositori che con la loro musica hanno alzato la voce a favore dei diritti umani, e quindi come non proporvi un brano manifesto come The Ghetto con Donny Hathaway. Ci sentiamo dopo l'informazione, sempre qui su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo collegati con The Groove Master Studio per questo appuntamento speciale del Soundcheck, dedicato, lo ripeto, a artisti, musicisti, compositori che con la loro musica hanno alzato la voce a favore dei diritti umani. E dopo una bella scorpacciata di grandi artisti degli anni 70, passiamo invece ai contemporanei. Quindi come non proporvi nuovamente il suono di D'Angelo. Ecco, trilogia per D'Angelo, in carriera soltanto 3 album in studio, un album dal vivo e poi alcuni bootleg che sono stati pubblicati da DJ e fans del grande campione del New Soul. Ecco, D'Angelo non si definisce Black Messiah, ci tiene a precisarlo, sì, questo è il titolo dell'album, il Messia Nero, ma lo stesso D'Angelo ha dichiarato: Black Messiah è un gran titolo, è facile fraintenderlo. Molti penseranno che parli di religione, altri salteranno alla conclusione che io mi definisca un messia nero. Per me il titolo parla di noi, del mondo intero, di un ideale a cui ognuno si possa ispirare. Molti brani, non tutti, dice D'Angelo, hanno una connotazione politica, ma il titolo Black Messiah serve a includerli nel contesto più giusto. Il Black Messiah, il messia nero, non è un uomo. È la sensazione che collettivamente siamo tutti quel leader, siamo tutti Black Messiah. Al soundcheck di Radio 24, D'Angelo, Another Life. Soundcheck. Il suono della musica. Stand Alone, questo è il titolo di questa composizione scritta da Robert Glasper con la complicità del rapper Common per i suoi Experiment. E Robert Glasper proprio poco tempo fa, in occasione del bellissimo concerto, della splendida performance fatta nel piccolo strepitoso club foggiano Moody del nostro amico Nino Antonacci, che salutiamo, Glasper ci raccontò anche dell'incontro con un grande personaggio americano come il professor Michael Eric Dyson, presente nell'ultima parte di I Stand Alone con le sue spoken words. Michael Eric Dyson, professore di sociologia alla Georgetown University, ha raccontato attraverso i suoi scritti la vita e le opere di Malcolm X, Martin Luther King, Marvin Gaye, ma anche personaggi come Bill Cosby e Tupac Shakur, considerato un professore universitario ma anche un figlio della strada. E con i suoi versi, qui nell'ultima parte di Stand Alone, il professor Michael Eric Dyson, in poche parole, ci racconta quanto sia importante per l'evoluzione della specie restare comunque se stessi senza mai cadere nell'imitazione. E qui al soundcheck arriva un'altra artista che in questo momento si sente un po' scomoda in questo mondo, Can't Live With The World, ce la canta Lauren Bula dall'ultimo splendido album, supportata dalla Metropole Orchestra qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Time to get loose. Coming from the il formidabile Anthony Hamilton con Coming From Where I'm From, qui al soundcheck di Radio 24, ci racconta l'orgoglio delle sue origini. In questo momento negli Stati Uniti, leggendo articoli su riviste e quotidiani, vengono fuori sempre i soliti nomi, da Martin Luther King, Malcolm X, Nina Simone, Nelson Mandela, ma anche il nome di un personaggio chiave, importantissimo, come Desmond Tutu, arcivescovo anglicano, anzi il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo lì in Sudafrica, primate della Chiesa Anglicana dell'Africa Meridionale, vincitore del premio Nobel per la pace nel 1984. Importantissimo Desmond Tutu perché è stato proprio lui a coniare l'espressione Rainbow Nation, nazione arcobaleno, che poi è diventato proprio un manifesto della cultura nazionale del paese, riportato anche in molti discorsi da Nelson Mandela, e che si riferisce proprio all'ideale della convivenza pacifica e armoniosa fra le diverse etnie del Sudafrica. Desmond Tutu è stato attivo nella difesa dei diritti umani e ha sempre lottato a favore degli oppressi per sconfiggere AIDS, tubercolosi, povertà, razzismo, sessismo, omofobia e transfobia. Ed è proprio per questo motivo che Marcus Miller e Miles Davis dedicarono a Desmond Tutu una loro celebre composizione che ha segnato il jazz contemporaneo e che qui vi proponiamo nella versione vocale di Al Jarreau con George Benson alla chitarra. Il brano si intitola Long Come Tutu al soundcheck di Radio 24. You know what makes me smile? It's kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in. A long, long time we were waiting. Soundcheck, il suono della musica. Siamo tornati nel 1970, concerto del Julian Conobal Adderley Quintet, album dal titolo Country Preacher, registrazione dal vivo, presentata e introdotta da un giovanissimo reverendo Jesse Jackson, che fu proprio allora, in quel periodo, nominato direttore di Operation Bread Basket, operazione cestino di pane, per sostenere l'infanzia difficile di bambini nati e cresciuti nei ghetti delle città americane. Un formidabile quintetto dal vivo. Nat Adderley alla tromba, sostiene il sax contralto di Julian Adderley, al Rhodes Fender c'è un giovanissimo Joe Zawinul, che è anche il compositore di questo brano intitolato Walk Tall, Walter Booker al contrabbasso, Roy McCardy alla batteria per questa puntata speciale del nostro soundcheck. E chiudiamo questo appuntamento con l'urlo super funk di James Brown, che cantò Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, dillo forte, sono nero e sono orgoglioso. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione, ci risentiamo domani per il soundcheck diviso in due parti, come sempre la domenica, prima parte alle 15:30, seconda parte dalle 19:15. A tutti voi buona serata e buona musica con James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.